Quando leggo, cerco sempre di comprendere il testo che mi sta innanzi. Una caratteristica, questa, certamente comune a tutti quelli che leggono. Spesso, tuttavia, ho la capacità di riscontrare certe difficoltà linguistiche o apparenti contraddizioni e in modo particolare nella Bibbia. Perché proprio la Bibbia? Perché innanzitutto essa è la parola di Dio, e la parola di Dio, benché scritta da uomini, ma ispirati da Dio stesso, non è sempre di facile lettura. Un esempio classico sono le prime parole con le quali inizia la Bibbia. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Tutti gli studiosi biblici e gli stessi ebrei sono d'accordo che vi sia in questa espressione un apparente errore grammaticale, perché il termine Dio in ebraico è plurale, mentre il verbo creare è al singolare. Cosa che un ebreo, scrivendo guidato esclusivamente dalla logica della propria cultura, non avrebbe mai fatto. E, nel corso dei secoli, gli ebrei stessi che copiavano i loro testi sacri, sempre per la medesima ragione, avrebbero molto volentieri cambiato. Anche questo ci prova che siamo di fronte ad uno scritto ispirato da Dio. Di queste discrepanze linguistiche nella Bibbia ce ne sono a centinaia, ma non sono lì per caso. Il loro scopo, infatti, è di rivelare delle profonde verità che non potrebbero essere dette in un altro modo. Oppure, per dirlo in un altro modo, il Dio Trino non poteva parlare di algebra meno in termini spirituali agli albori della storia dell'umanità. Così, mentre dettava le prime formule matematiche, di tanto in tanto obbligato a scrivere delle equazioni algebriche, la spiegazione delle quali sarebbe giunta solo con la venuta di Gesù Cristo. Infatti, già dal primo versetto della Bibbia riscontriamo il concetto della Trinità, ma com'era possibile per il Dio Trino parlare di Trinità? Se ancora non aveva rivelato una delle tre persone della Trinità. Così, mentre il termine ebraico Dio esprime un plurale, il verbo è al singolare, perché si riferisce ad una delle tre persone della Trinità, cioè a Gesù Cristo. In effetti, in tutta la scrittura si dice che Dio ha creato tramite Cristo. Mentre, se il verbo fosse al plurale, si potrebbe pensare che a creare ogni cosa siano state tutte e tre le persone della Trinità. Un termine al plurale e un verbo al singolare è quindi, sì, un errore grammaticale, nel quale tuttavia è già ravvisabile una delle più profonde rivelazioni di Dio. Dunque, quando leggiamo la parola di Dio, dobbiamo avvicinarci ad essa con tutta la semplicità possibile, perché solo in questo modo la si può comprendere. Ma altresì occorre cogliere nelle parole il segreto di tante verità nascoste. Nella lettura del Vangelo di Matteo è un termine che fa riflettere molto, perché non sembra affatto consone al discorso. Si tratta, del resto, di un vocabolo presente quasi 100 volte. È la parola Vangelo. Per capirla, però, occorre leggere tutto il contesto. Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua, e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caiafa, e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse loro: perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me. Perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. IMT 26.1, 13. Matteo, dei tanti episodi della vita di Gesù, ne ha descritto uno, il quale potrebbe anche passare Inosservato, se Gesù non avesse affermato che l'azione della donna sarebbe stato raccontato in memoria di lei. Ma ciò che cattura l'attenzione è la locuzione, questo Vangelo, cosa del resto notata anche da alcuni studiosi biblici. Il Vangelo secondo Matteo, Meret France, edizioni GBU 2004. Perché la locuzione questo Vangelo fa effetto? Perché Gesù in quel momento non sta proprio insegnando nulla, sta solo accettando che inconsapevolmente una donna gli versi sul capo dell'olio, in vista della sua sepoltura. In quel momento si sta semplicemente svolgendo un fatto non seguito da prediche o da racconti di parabole. Perché allora Gesù si riferisce a questo Evangelo, termine che ha il significato di buona notizia? Dov è la buona notizia in ciò che sta succedendo se Gesù non ha detto proprio niente? Se non siamo in grado di rispondere, evidentemente qualcosa ci sfugge. O Gesù ha sbagliato a parlare, oppure non abbiamo compreso qualcosa. La risposta è evidentemente la seconda. Ho trovato una eccellente risposta al nostro interrogativo in un libro di Ben Witherington III. Nel suo libro Il Codice del Vangelo, edizioni GBU 2006, pag. 130. Il termine Vangelo, buona novella, non è un termine cristiano, ma un termine già usato nel mondo greco-romano, prima che fossero scritti i Vangeli canonici. Per il fatto che il mondo antico non aveva un'economia di libero mercato, molto spesso ciò che oliava gli ingranaggi della società e del commercio era la generosità delle persone di alto rango. Gli imperatori in particolare erano esaltati per la loro magnanimità e per i loro trionfi. Il Vangelo era dunque la buona novella di tutto ciò che l'imperatore o qualche altra persona potente faceva a beneficio del popolo. Per questa ragione i benefattori per lo più non erano esaltati per i loro grandi pronunciamenti filosofici o per la loro saggezza. Quando i primi cristiani presero in prestito il termine Vangelo avevano in mente la buona novella rappresentata dalle cose che Gesù aveva fatto, tra le quali c'era anche una parte del suo insegnamento. Per esempio, il primo Vangelo scritto Marco è sostanzialmente pieno di fatti. Si concentra sulle azioni di Gesù. È difficile che i primi cristiani potessero considerare Vangelo una semplice collezione di insegnamenti senza un resoconto dell'azione salvifica di Gesù. Se ci soffermiamo un attimo a esaminare i sermoni riassuntivi che si trovano nel libro degli Atti degli Apostoli, per esempio nei Cap 2:13, o ci rivolgiamo ai più antichi documenti del Nuovo Testamento, le lettere di Paolo, per esempio Filippesi 2:5-11, scopriamo che le prime prediche su Gesù si concentravano sulle sue azioni e sulla sua identità. A volte, quando chiedo ai miei studenti, continua l'autore, potremmo essere salvati se Gesù non avesse raccontato la parabola del buon samaritano? Essi rispondono immediatamente: certo che potremmo. Proseguo citando un insegnamento di Gesù dopo l'altro e loro continuano a ripetermi: sì. A un certo punto chiedo: potremmo essere salvati se Gesù non fosse il Salvatore, se non fosse morto in croce e poi risorto? Tutti all'unisono rispondono in modo enfatico: no. Il messaggio fondamentale è che Gesù venne come nostro Redentore, morì e risorse. Sia i primi predicatori sia i primi Vangeli, cioè i Vangeli biblici, concordano nel ritenere che una buona novella, per essere tale, debba includere i fatti che Gesù compì in favore degli altri, in particolare la sua morte e la sua resurrezione. Questo spiega perché Gesù, davanti alla donna che lo ungeva con l'olio, parlò di questo Evangelo. Gesù stava dicendo che il gesto di beneficenza nei suoi confronti era un Vangelo, perciò sarebbe stato raccontato in memoria di lei. In effetti, tutti e quattro gli Evangeli narrano questo episodio. Questo modo di comprendere il termine Vangelo dovrebbe capovolgere il nostro comune modo di pensare. Molti credenti hanno l'obiettivo di portare la buona notizia agli altri perché animati dal desiderio di comunicare ciò che sanno, ma spesse volte non tengono in considerazione il loro modo di vivere, e questa è anche la ragione del fallimento della loro testimonianza. Portare una buona notizia al prossimo composto di insegnamenti di Gesù e della sua opera redentrice è buono e da incoraggiare, ma se ciò che si dice non viene seguito da altrettanti gesti di amore e di benevolenza, si presenta un Vangelo tagliato a metà. E purtroppo, dato che il prossimo è più attento a ciò che vede che a ciò che ode, il comportamento del credente è spesso più influente del suo messaggio. Inoltre, dobbiamo accettare il vero significato del termine Vangelo, cioè volendo evangelizzare il prossimo. Non dobbiamo limitarci a degli insegnamenti morali quali volerci bene e cercare la pace a tutti i costi. Ma occorre mettere enfasi che Gesù è morto e risorto perché tutti gli uomini nascono peccatori perduti e che nessuna religione, compresa quella cattolica romana, può cambiare la situazione spirituale con sterili riti religiosi o con una presunta autorità. Secondo il vero Vangelo, l'uomo peccatore perduto può essere reso giusto davanti a Dio e riconciliarsi con Lui solo mediante un atto di fede compiuto una volta per sempre nel sacrificio sostitutorio di Cristo. Diversamente, si annuncia un Vangelo che non è affatto il Vangelo di Cristo. Dopo 2000 anni occorre ritornare al vero significato della parola Evangelo, occorre predicare dai pulpiti che Dio ha già perdonato la sua creatura per quello che Gesù ha fatto, e se leggiamo che dopo la sua morte e resurrezione non c'è, è più bisogno di offerta per il peccato, Eb 10.18, allora chi crede a questo Vangelo ha solo bisogno di accettare il perdono di Dio e di non essere presente ad una messa cattolica romana. Il Vangelo meno, proprio per la sua caratteristica storica meno, è in grado di cambiare la vita di qualsiasi religioso. Se la vita non cambia, allora significa che si è creduto ad un altro Vangelo. E dato che la posta in gioco è grande, perché si tratta di perdizione o beatitudine eterna, è saggio, molto saggio, verificare a quale Vangelo abbiamo creduto e aderito. Marzo 2008. Ellero,